Buongiorno, mi chiamo Sophie, vengo da Skopje, Macedonia del Nord. Vi racconterò un aspetto della mia esperienza Erasmus. Avevo deciso di partecipare al programma Erasmus nell'anno accademico 2020-2021, trascorrendo 5 o 6 mesi del mio percorso universitario in Italia. La mia esperienza Erasmus purtroppo è andata diversamente da come l'avevo immaginata, poiché 2 settimane dopo il mio arrivo in Italia, il Consiglio dei Ministri italiano ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per la pandemia di Covid-19. Nonostante una situazione sicuramente non ideale e piena di incognite, ho comunque deciso di continuare con l'Erasmus, una scelta non molto semplice. Ho deciso di rimanere in Italia non soltanto perché avevo ormai speso molte energie e risorse per il mio soggiorno in Italia, ma anche perché mi spaventava l'idea di intraprendere un viaggio per rientrare nel mio paese. Devo ammettere che il Covid ha completamente stravolto la mia esperienza Erasmus. Purtroppo sono riuscita a seguire soltanto un paio di lezioni di ciascun corso in presenza. Per il resto del soggiorno sono praticamente rimasta bloccata in casa e ho seguito i corsi in modalità online. Sulla piattaforma dell'università venivano caricate le video lezioni dei professori, il che era molto comodo perché potevamo riguardare la lezione e poi fare i compiti assegnati. C'erano anche dei ricevimenti online con i docenti che si sono mostrati molto disponibili, ma anche reperibili via mail fuori dagli orari previsti per i ricevimenti. Ho seguito 4 corsi: lessicologia e lessicografia italiana, didattica della lingua italiana, didattica della lingua italiana a stranieri 1, teorie, metodologie e tecnologie per la didattica delle lingue straniere. Ho sostenuto senza alcun problema tutti gli esami e sono contenta dei risultati raggiunti. La pandemia e la paura del Covid non mi hanno tolto la voglia di imparare e di allargare i propri orizzonti. Vorrei alla fine dare un consiglio agli studenti Erasmus provenienti da paesi extraeuropei per quanto riguarda l'assistenza sanitaria, perché non si sa mai. Dovete sapere che in Italia l'assistenza sanitaria dei cittadini stranieri è regolata da convenzioni internazionali. Agli studenti internazionali si garantisce la copertura delle spese sanitarie secondo 2 diverse modalità, in rapporto alla loro appartenenza o meno all'Unione Europea. Gli studenti extracomunitari come me, per usufruire delle prestazioni sanitarie, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattie e infortunio. Si devono rivolgere all'ufficio assistenza estero e presentare alcuni documenti, tra cui permesso di soggiorno per studio o, in attesa del rilascio, passaporto con visto per studio e ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, certificato di iscrizione all'università, dichiarazione di effettiva dimora, eccetera. Alla fine vorrei dire che se avessi l'opportunità, ripeterei l'esperienza Erasmus. Senza il Covid, ovviamente, auguro a tutti gli studenti di approfittare dell'occasione di sperimentare in prima persona.